ma poi tutto mi manca e allora mi accorgo che vorrei essere il vento che sfiora la tua pelle. Sognerò ad occhi aperti di sfiorare le tue labbra, scivolando nell'inganno per un istante, per un istante. Fermerò il tempo che ruba la tua bellezza e incatenarla qui con me. Vorrei per un istante, e chissà se non ci riuscirei. Mi accorgo che vorrei essere un suono che sfiora la tua mente. Sognerò ad occhi aperti di sfiorare le tue labbra, scivolando nell'inganno per un istante, per un istante. Fermerò il tempo che ruba la tua bellezza e incatenarla qui con me. Vorrei per un istante, e chissà se non ci riuscirei. E poi tutto cambia e allora mi accorgo che essere un suono che...